La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Sordi è stato un grandissimo attore, Sordi è stato un grandissimo osservatore della vita che aveva intorno a lui, un uomo che è rimasto fedelissimo alle sue origini, alla sua città, al suo linguaggio. I suoi personaggi messi in fila fanno un po' la storia d'Italia. Alberto Sordi, secondo Tullio Kezic, nell'ultima intervista che mi aveva rilasciato nemmeno un anno fa, scrittore, sceneggiatore, autore teatrale, ma soprattutto critico cinematografico, il critico per più generazioni di cinefili. Tullio Kezic ci ha lasciato il 17 agosto a 81 anni. In questi giorni le cose su di lui sono state dette tutte, le sue prime recensioni a Radio Trieste, come fa a non starci simpatico, la sua amicizia con Fellini, protagonista con lui della stagione della Dolce Vita e di quella del grande cinema italiano, il lavoro con Ermanno Olmi, con cui scrive quel capolavoro che è La leggenda del santo bevitore, e la firma di prestigio sui due principali giornali italiani, prima Repubblica, poi il Corriere della Sera. Sì, è stato detto tutto in questi giorni di Tullio Kezic. E allora voglio raccontarvi cos'era Kezic, lo chiamavamo così noi, per cognome, come fosse un calciatore di rango, Rivera o Mazzola. Per noi giovani, ormai non più tanto, critici cinematografici. Lo trovavi lì, in sala, nelle prime file, spesso da solo, amava vedere così i film, ma era tutt'altro che snob o inavvicinabile. Kezic, come le è sembrato questo film? E Kezic rispondeva, articolava, spiegava, e per noi era sempre un confronto proficuo, perché lui il cinema, quello grande, quello vero, lo aveva vissuto da dentro. Tra pochi giorni a Venezia guarderemo in sala verso quella sedia che sarà vuota e un pezzo di storia sarà scritto per sempre. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea e questo era il nostro omaggio a Tullio Kezic. Ma il cinema come sempre va avanti, inesorabile, allora eccoci qua. Qualcosa sembra rifiorire, sembra, nei cinema italiani, dopo le gelate che nelle nostre sale arrivano in piena estate, ma si tratta soprattutto di erbe spontanee, diciamo così. Una commedia media come I Love You Man, un horror sopravvalutato come Il Messaggero, un film così brutto da far pensare a uno scherzo come S. Darko, sedicente sequel del cult generazionale Donnie Darko. Un film per ragazzi, protagonista l'ennesima pietra magica. Forse la cosa più interessante arriva direttamente dal Festival di Locarno, che ha chiuso i battenti qualche giorno fa, Sogno il mondo il venerdì. Il titolo è promettente, la distribuzione, a proposito di Locarno, a macchia di leopardo. Questa settimana a Roma, Cinema Quattro Fontane, dalla prossima Milano, Torino, Bologna, Firenze, è il destino del cinema italiano indipendente, che è parte cospicua della nostra produzione, spesso la più interessante e invisibile. Sgomitare per un pugno di sale, perché nei cinema ci va S. Darko. Ne parleremo. E allora cominciamo a spiegare il perché di tanto scetticismo, partendo dall'operazione più colossalmente bufala di questo inizio d'anno. Dallo scorso mese di luglio le città italiane e le reti televisive sono tappezzate di pubblicità che lanciano l'evento S. Darko con un sottotitolo Donnie Darko aveva una sorella. E sarebbe stato meglio di no, così non ci facevano il sequel. Nato in America per il mercato del DVD, e questo spiega molte cose, e che in Italia siamo riusciti a portare sul grande schermo. All'uscita della proiezione stampa il mese scorso, vi racconto un aneddoto, a Milano, io e alcuni colleghi ci siamo ritrovati fuori dalla sala. I nostri sguardi si incrociano, ognuno aspetta le mosse dell'altro, tutti mostriamo un certo imbarazzo, finché non rompo il ghiaccio e dico: ditemi che non sono il solo a non aver capito niente di questo film. Un mormorio crescente diventa boato, un misto di disapprovazione per il film e sollievo perché tutti ci siamo sentiti meno soli e un po' meno stupidi. S. Darko, titolo peraltro impronunciabile, S. puntato Darko, è un film totalmente incomprensibile e perciò inspiegabile, frutto della contorta fantasia del suo regista Chris Fisher, uno che ha all'attivo 5 puntate di telefilm. C'è una cosa che non ti ho ancora detto. Anche mio fratello è morto. Io avevo 10 anni. A partire da quel giorno, niente è stato più come prima. Non lo sarà più. Non possiamo farci niente. Tu credi che sarà più facile? Credo che sarà peggio. Forse dipende solo da noi. Come? Ci svegliamo e ricominciamo. Mi piacerebbe tanto poterci credere. Abbiamo gli stessi buchi nel cuore. Io e te. Samantha, detta Sam, la sorella di Donnie, è diventata una bella e spregiudicata ragazza. Insieme all'altrettanto aperta amica Corey, parte a bordo di un'auto sportiva per cercare fortuna come ballerina in California. Ma il solito guasto al motore, senza il quale la metà dei road movie non si potrebbe fare, le costringe all'attesa in un motel di Conejo Springs, cittadina lugubre e popolata da personaggi inquietanti. Un prete pedofilo, un poliziotto invadente, bulletti di provincia. In questa situazione un po' surreale, arriva un meteorite che si abbatte sul locale mulino, scavando un enorme cratere. Dall'impatto si salva Iraq Jack, un giovane reduce dalla guerra in Medio Oriente. E perché si salva? Perché nella notte il fantasma di Samantha gli ha annunciato l'imminente fine del mondo. Metteteci anche Frank, il coniglio gigante antropomorfo, e continui salti spazio-temporali e uscirete dalla sala con il mal di testa. Sam, c'è qualcosa che posso fare? Riportami la mia amica. Comprami quel vestito. Non posso permettermelo. Non puoi neanche riportare indietro la mia amica, vero? No. Beh, allora tu a che cosa servi? Si dirà, ti piacciono le trame facili? Risponderò, no, non è questo il problema. È che la sceneggiatura fa acqua da tutte le parti e quel confuso groviglio di storie è sottomesso a un senso estetico da videoclip, anche un po' déjà vu. L'America di provincia, gli orizzonti piatti, i tramonti mozzafiato, le ragazzine ammiccanti, i motori rombanti. Con un regista che avesse diretto gli attori, forse con degli attori meno improvvisati, qualche emozione in più forse sarebbe arrivata allo spettatore, che è poi il minimo sindacale che si può richiedere a un thriller fantasy. Comunque non preoccupatevi, Donnie Darko non aveva altri fratelli. C'è da giurarci comunque, S. Darko entrerà nella top 10 dei film più visti, almeno sulla spinta di una grande promozione, una classifica che è praticamente paludata ormai da settimane. Settimana scorsa qualcosina si è mosso, l'avevamo anche detto, quella Rosa Purpurea. I nuovi film riusciranno a entrare nella top 5. È stato così, ma con incassi vicini al risibile. Al quinto posto troviamo ancora La rivolta delle ex, al quarto Una notte da leoni, al terzo Alieni in soffitta, una delle nuove uscite dello scorso fine settimana, al secondo ancora Harry Potter, al primo posto Sex Movie in 4D. Attenzione, primo posto del weekend, tra l'altro la commedia merita pure, ma 252.000 euro di incasso sono davvero poca cosa. S. Darko farà di più sicuramente, non ci sarà da sorprendersi se lo troveremo anche primo in classifica il prossimo fine settimana. La Rosa Purpurea. La seconda parte della Rosa Purpurea si apre con un'altra pellicola della quale vogliamo parlarvi. Si intitola Il Messaggero, è un film horror, genere horror. Il titolo originale è The Haunting in Connecticut, la caccia nel Connecticut. Virginia Madsen, Amanda Crew ed Elias Koteas sono i personaggi del cast più celebri. La regia di Peter Corwell è una variazione sul tema sempre verde nella storia dell'horror della casa maledetta. Perché alle brave persone accadono cose brutte? Eravamo una famiglia normale come tutte le altre. Non volevamo questo e non lo meritavamo. È perfetta, è spaziosa, conveniente. Dov'è la fregatura? Beh, diciamo che c'è una storia dietro. Il primo che arriva si sceglie la stanza! Corri! Mette scettola tua! Sarah Campbell era contenta della nuova casa, la casa che aveva trovato in piena campagna nel Connecticut. Un trasferimento che si era reso necessario per gli enormi problemi che la famiglia doveva affrontare per le cure del figlio Matt, un ragazzo di circa 16-17 anni, gravemente malato di cancro. E quindi la famiglia si era dovuta trasferire appunto in una casa più vicina all'ospedale, dove fosse possibile prestare appunto le cure quotidiane. L'approccio era stato positivo, tanto che, come avete sentito nella clip, la capofamiglia Sara si chiedeva come mai questa casa costasse così poco. Effettivamente l'avrebbero scoperto subito, lei e suo figlio, il perché. Perché sin dall'inizio si cominciano a manifestare delle presenze, prima abbastanza velate, poi più visibili. Perché hai rimesso a posto i piatti? Cosa? Avevo preso i piatti, ma ora sono a posto. Non li ho toccati, veramente. Ti senti bene? Li ho visti lassù e poi... Il dottor Brooks. Lo so che ha detto il dottor Brooks, ok? Ha detto che se ho le allucinazioni sospendono l'esperimento. Ma se tu... Non ho le allucinazioni. E avete sentito quindi Matt che cerca di rassicurare la madre, non ho le allucinazioni, ma questo se da una parte rassicura sotto il profilo medico, dall'altra inquieta, perché ovviamente i fenomeni che si manifestano nella casa a questo punto sono attribuibili ad altro. E su questo Matt coinvolge la cugina, che è venuta a stare con loro appunto in Connecticut, Wendy, che tra l'altro è Amanda Crew, giovane attrice che in questi giorni curiosamente troviamo anche in un altro film uscito da pochi giorni, appunto, che è Sex Movie in 4D. Chiusa la parentesi, dicevo, quindi coinvolge la cugina e si sbottona con lei, le spiega un po' qual è la situazione che sta vivendo, queste strane presenze, queste visioni, queste persone, queste figure umane che non solo nel sonno ma anche da sveglio gli si parano davanti. E con la cugina comincia una ricerca. Il primo oggetto utile che viene identificato sono alcune vecchie foto. Dio, sono tutti morti. Che tristezza, sarà stata l'unica foto che gli hanno mai scattato. Credevo che fossero allucinazioni, ma ho visto questo ragazzo quasi ogni giorno da quando siamo qui. Dobbiamo cercare di capire chi ha messo questa roba sotto il pavimento e perché. E come facciamo? Ok, non dirlo a nessuno, ma ci sono degli edifici in tutto il paese dove viene custodito il sapere. Si chiamano biblioteche. Un po' di ironia, insomma, anche da parte di Wendy nei confronti del cugino. Partono le ricerche appunto in biblioteca e senza ovviamente togliervi nulla dell'appeal del film, diciamo che i ragazzi troveranno una motivazione, troveranno la storia, quella famosa storia di cui parlava anche il proprietario all'inizio, dicendo questa casa ha una storia e per questo che l'affitto costa poco. Qui il film, diciamo, ha un salto in avanti in termini di intensità, anche se la tensione è costante sin dall'inizio, perché le presenze cominciano un po' a chiedere il conto in un certo senso, e in aiuto dei ragazzi arriva un prete, padre Popescu, che Matt ha conosciuto in ospedale durante le terapie. Anche il prete è malato di cancro, entrambi si sentono in un certo senso vicini alla morte e forse per questo più sensibili rispetto a queste visioni. C'è qualcosa in questa casa. Non è viva, ma non è neanche morta. Che è successo qui? Qualcosa di malvagio. E vuole suo figlio. E quindi qui noi ci fermiamo con le suggestioni sonore del film. Il film, come dicevo, ha una buona tensione sin dall'inizio. Ormai è una dicitura che sembra essere un valore aggiunto dei film horror, tratto da una storia vera, lo si sente molto spesso. Poi bisogna ben andare a vedere qual è la storia vera, ovviamente, perché questo è pur sempre cinema. Però è vero che nel 1987 ci fu proprio in una casa di Southington, nel Connecticut, un'inquietante manifestazione di spiriti. Ovviamente questo lo deduciamo dalle cronache dell'epoca, presso una famiglia che si era appena trasferita appunto in una casa a lungo disabitata, e subito dopo il trasloco era stata trovata una camera di imbalsamazione nel seminterrato e cassetti pieni di terribili fotografie di cadaveri degli anni 20. Ecco, questi sono gli elementi che vengono ripresi dal film. Certo, ci si può chiedere come mai Matt sceglie come sua stanzetta, diciamo così, sua cameretta, la taverna della casa, insomma, piuttosto lugubre. Penso che nessuno di noi e di voi che ci state sentendo l'avrebbe scelta per dormirci di notte. Perché la madre, così attaccata amorevolmente al figlio, ci metta così tanto a decidere di lasciare questa casa, dopo che ormai tutte le manifestazioni soprannaturali possibili e immaginabili si sono manifestate. La storia in sé non è nuovissima, c'è un po' del mito appunto della casa maledetta e c'è un po' di quel mito del al di qua e al di là, che era un po' la base di un film come The Others, se ricordate. Certo che però rimane il fatto che il film è ben fatto, perché non va troppo per le lunghe con fronzoli e preamboli, entra subito nel vivo, dopo pochi minuti le presenze già si manifestano, la regia è molto asciutta, il che fa sempre bene un film di tensione o un film horror, quindi bravo in questo senso al regista, che appunto riesce a tenere abbastanza fermo il timone, Peter Cornwell, senza sbrodolare di qua e di là. E poi una tensione costante, dicevamo, dall'inizio alla fine non c'è lo spavento clamoroso, ma c'è una serie di punti, di momenti nei quali si sente, si capisce un po' l'assedio che vivono questi personaggi. Questo è un po' il racconto quindi di Il Messaggero, uno dei film, forse quello più interessante alla fine tra quelli che escono nelle sale in questo fine settimana. E allora, abbandonate le novità al cinema di questa settimana, le principali novità di questo weekend, ci spostiamo in avanti e continuiamo la nostra visita sui set che sta caratterizzando un po' le puntate della Rosa Purpurea di questo mese di agosto. Sì, perché il cinema italiano ha lavorato molto durante quest'estate, noi siamo andati a curiosare sui vari set dei film più importanti e più attesi della prossima stagione. Oggi parliamo del nuovo film di Luca Lucini, ormai diventato un regista importante, anche molto atteso, anche per il business che riesce a muovere. Comunque la gente ama i suoi film, l'ultimo è stato Solo un padre, lo ricorderete, ma è anche il regista di Tre metri sopra il cielo, oppure dell'Uomo perfetto, tutti successi nel loro genere. Questa volta il film di Luca Lucini si intitola Oggi sposi, uscirà il 23 ottobre, è un film che racconta una fase interessante, quella che va, diciamo, dalla promessa di matrimonio all'effettuazione del matrimonio stesso, quella fase nella quale tutti hanno un po' sentito magari degli sbandamenti, dei ripensamenti, e poi ci sono tutte le preparazioni, tutte le situazioni che incombono, insomma si vive in un mondo un po' straniante quel periodo, che a volte è di qualche settimana, a volte è di molti mesi. Commedia brillante comunque, con un cast che vede attori di grande esperienza come Michele Placido e Renato Pozzetto, ma anche giovani che sono fra i migliori della loro generazione come Carolina Crescentini o Luca Argentero, che nello specifico vestirà i panni di un poliziotto pugliese che sposerà la figlia dell'ambasciatore indiano, quindi c'è anche questo crossover di carattere culturale. Allora abbiamo chiesto a Luca Argentero quanto si trova bene in questi panni da commedia all'italiana. Io ci sto molto molto bene, nel senso che la prerogativa della commedia impone di divertirti per primo, se no hai poche speranze di pensare di poter divertire gli altri. Normalmente tutto ciò che nasce dalla felice penna di Fabio Bonifacci, che è stato lo sceneggiatore anche di Lezioni di cioccolato, come di Diverso da chi, nascono per divertire e con il grosso valore aggiunto di voler anche raccontare qualcosa, insomma far uscire le persone con qualcosa a cui pensare dopo averli divertiti. Oggi Sposi ha una variazione, è scritto assieme a Marco Martani e Fausto Brizzi, è una commedia nel vero senso della parola ed è la storia di quattro giovani coppie che attraverso mille peripezie si avvicinano al fatidico giorno del sì. Ognuna di queste coppie ha i suoi problemi e le sue traversie, e il cast è meraviglioso, il progetto è molto divertente, ci hanno divertiti moltissimo a girarlo. Il riscontro immediato della bontà di qualcosa che stai facendo ce l'hai mentre lo fai. Se un macchinista o un elettricista si mettono a ridere mentre tu stai girando una scena e loro ne hanno viste tante, vuol dire che stai facendo qualcosa di buono. Come abbiamo detto, il regista del film è Luca Lucini, è un sodalizio quello con l'altro Luca Argentero, che continua dopo Solo un padre. Perché Luca Lucini ha scelto nuovamente questo attore? Sentiamo. Beh, è stata una bellissima collaborazione, mi ha divertito passare dal Luca Argentero drammatico, se possiamo così definire, nel ruolo di Solo un padre, a invece Luca Argentero totalmente sopra le righe, molto, molto comico, molto divertente. Ma puoi raccontarci un po' più nello specifico i dettagli della trama di questo film? Beh, è divertente perché analizza il periodo che sta fra il momento della dichiarazione mi vuoi sposare fino al giorno delle nozze, e prendendo in considerazione tutti i vari casini che succedono, dalle bomboniere all'organizzazione del ricevimento, ai litigi con le famiglie, alla lista degli invitati, quindi è una cosa molto pratica del matrimonio più che romantica, in totale contrasto con il vero significato del matrimonio, e in cui tutti prima o poi chi si è sposato ha avuto a che fare, e ovviamente le coppie sono le più diverse, appunto quella di Luca Argentero fra una straniera e un pugliese, quindi devono organizzare un matrimonio praticamente indo-pugliese poi ci sono due giovanissimi che non hanno i soldi per sposarsi, quindi devono inventarsi di tutto per organizzare il loro matrimonio, fino a una persona di una certa età che sta sposando una ragazza giovanissima. Ce n'è per tutti. Un film che rimane nel solco della commedia, ma rappresenta un nuovo cambiamento rispetto alle precedenti opere di Luca Ruccini, appunto L'uomo perfetto, Solo un padre, ma soprattutto rispetto a Tre metri sopra il cielo. Ecco, c'è questa eterogeneità delle scelte. Io non ho voluto ripetere una formula che fare il seguito del mio, anche se poi era un successo dichiarato, proprio per mantenere la voglia di fare cose diverse, cose nuove, e l'entusiasmo di trovare delle nuove strade. Questa è una sfida, secondo me, bellissima. Già il fatto che la scrivano altri due registi, Brizzi e Martani, assieme a uno dei sceneggiatori più votati del momento, il cast che ha aderito è entusiasmante. Io ho chiesto a tutti, praticamente tra i più bravi attori italiani emergenti, con anche invece degli attori storici che hanno fatto veramente la storia del cinema, come Renato Pozzetto, Michele Placido, Lunetta Savio. C'è un cast eccezionale a disposizione proprio del tentativo di ridare una grande forza alla commedia, che comunque al film comico, che ultimamente in questi anni è sempre stato appannaggio di comici, che secondo me è una strada interessante, ma deve essere una delle strade, non può essere l'unica strada possibile. Luca Ruccini ormai, regista affermato, dicevamo, è di successo, che però non si fa prendere la mano da manie autorali. Mi sono ricavato il ruolo, diciamo, di regista puro, nel senso che lavoro sempre su sceneggiature di altri, e devo dire non mi dispiace affatto, perché è una cosa che in tutto il mondo è normalissima, e invece in Italia non dico che sono l'unico, ma praticamente, che è una cosa che invece secondo me sarebbe utile, cioè iniziare a ricreare proprio un sistema operativo dove ci sono degli sceneggiatori che fanno i sceneggiatori, dei registi che fanno i registi, degli attori che fanno gli attori, e sarebbe più interessante per tutta una parte di cinema che avevamo e che abbiamo un po' perso. La Rosa Purpurea. Ed eccoci insieme ancora a terza parte della Rosa Purpurea di questa settimana. Come abbiamo detto, andiamo avanti con la nostra top 100, i 100 film più visti della stagione cinematografica che si è conclusa da poco, quella che è andata dal 1 agosto dello scorso anno al 31 luglio di quest'anno. Ovviamente è una classifica nella quale c'è qualche film che ha avuto un pezzo di là e un pezzo di qua, ma noi insomma questo chiaramente lo sottolineiamo. Ne troveremo uno fra poco, per esempio, che era il Batman dello scorso anno, il Cavaliere Oscuro. Ma cominciamo allora in questa tranche, in questo terzo quarto di questa top 100. Passiamo dal 50° al 26° posto e cominciamo con Transformers, La Vendetta del Caduto, film che ovviamente ha ampi margini di salita, perché è un film ancora assolutamente forte nelle sale cinematografiche, ma al tempo della chiusura di questa classifica era 50° e andiamo ad ascoltare una clip. Pronto? Michela? Mi hai dato buca al nostro primo incontro in chat, complimenti. Ho avuto un collasso mentale in classe! Vedo quei simboli da quando... Da quando? Toccato la scheggia del cubo. Shia LaBeouf e Megan Fox protagonisti di questo film. 49° posto per Sfida senza regole, un film che rimette insieme due attori molto amati come Robert De Niro e Al Pacino, non con esiti particolarmente brillanti. Qualunque cosa accada, non ti farò affondare insieme a me. Non devi preoccuparti, io sto bene, dammi retta. Chissà dove avevo la testa. Io lo so dove l'avevi. Stavi pensando a una bambina di 10 anni con il cranio fracassato. 48° posto per Terminator Salvation, il nuovo episodio della saga di questo cyborg, appunto, che fu all'inizio Arnold Schwarzenegger. 47° posto per Il papà di Giovanna. Giovanna, ragazza bruttina con un padre che fa di tutto per convincerla del contrario e spingerà le sue illusioni fino alla tragedia. Tu conosci mia figlia, Giovanna? Le parli? Sì, le parlo. Io non voglio sapere perché le parli, non voglio intromettermi. No, mi è molto simpatica. E poi sa tutto. Ieri, per esempio, sul Petrarca e le lettere ai familiari mi ha... Io spiegato. Volevo che tu sapessi che Giovanna è una ragazza particolare, di sicuro diversa da tutte quelle che frequenti normalmente. Tu puoi farle molto male. 46° posto per un altro film italiano, Come Dio Comanda, la storia di un padre alcolizzato, sbandato e disoccupato che educa il figlio al culto della forza e della violenza. Ascoltiamo una clip e poi un commento di Gabriele Salvatores. Tu gli vuoi bene, papà? Sì. Se mi mandano in istituto, lui rimarrà da solo. Tu mi devi promettere una cosa, Quattro. Non lo devi lasciare mai. Qui ci sono due cose a cui aggrapparsi. Uno è questo ragazzo, l'amore che c'è tra questo ragazzo e questo padre, che comunque, anche se sono personaggi difficili, scorretti, magari personaggi che non vorremmo mai incontrare, comunque il loro amore è molto forte, io glielo invidio. Vorrei avere la capacità di coinvolgimento che ha Rino con suo figlio. E dall'altra parte c'è una canzone di Leonard Cohen che dice: ogni cosa ha una crepa, perché così la luce possa entrare. Bene, questo amore di cui parlavo è proprio la crepa nella corazza di Rino, quella lacrima sul viso del padre che capisce che ha fatto del male a suo figlio in qualche modo, è come davvero un raggio di sole. 45esimo posto per Revolutionary Road di Sam Mendes, storia di una coppia middle class dei sobborghi benestanti di New York, nella America del sogno non ancora infranto. Sai che impressione mi fa, April, sinceramente? Farei questi discorsi, tutta l'idea di andare in Europa in questo modo. È così che mi sentivo raggiungendo le linee la prima volta, in guerra. Insomma, io ero forse impaurito come tutti gli altri, ma dentro non mi sono mai sentito meglio. 44esimo posto per una commedia, Tropic Thunder, la storia di una troupe che va a girare un film di guerra e poi si trova coinvolta davvero in una guerra. Sai fare quello che faccio io? Fotografate questo! I miei attrezzi sono le emozioni. Lazarus ha affrontato una procedura di alterazione della pigmentazione per impersonare il sergente afroamericano. Si torna al cinema italiano, 43esimo posto per Questo piccolo grande amore, un concept movie tratto dall'omonimo album di Claudio Baglioni. Ho incontrato una ragazza. Com'era? Bellissima. Quando ci stanno i testimoni, le ragazze sono tutte bellissime. 42esimo posto per No Problem di Vincenzo Salemme, nei panni di un attore che si trova suo malgrado a essere padre di un ragazzino. 41esimo posto per Beverly Hills Chihuahua, film con tanti cagnolini protagonisti. Siamo in zona Disney. 40esimo posto per Nessuna Verità. Questo è il primo film che supera la soglia dei 4 milioni di euro di incasso, esattamente 4.536.000 euro. Un boss della CIA è determinato a catturare un pericoloso leader di Al-Qaeda. Senti, vuoi che dirigi Amman? Allora lasciami dirigere Amman, va bene? Ho fatto delle promesse a Hani Salam, lo capisci questo? Vieni al punto. Dobbiamo rispettare le sue richieste. Io le rispetto. Quali richieste? Manderai in malora tutto il lavoro dell'agenzia ad Amman. Cerco solo di proteggerti, amico. Quello è un mondo pericoloso, lo sai? Beh, piattala di proteggerti, perché non mi serve. Leo DiCaprio e Russell Crowe protagonisti di questo film, così come Tom Cruise invece è il protagonista di Operazione Valchiria, la cronaca del coraggioso piano per eliminare Hitler che venne messa in atto da un suo ufficiale. Sentiamo la clip e poi Tom Cruise sul suo personaggio von Stauffenberg, appunto l'uomo che attentò alla vita di Hitler. Piacente colonnello, nessuno entra o esce. Abbiamo un ordine del Führer, dobbiamo arrivare subito al campo di volo, alzi la sbarra. Mi dispiace colonnello, ma ho l'ordine di tenere la... Ho appena dato un ordine io, sergente. Signore, scusa. Without that it was complex. Sicuramente la cosa che mi ha attratto di questo personaggio è la sua complessità. Scoprire poi che era il racconto di storie realmente accadute era affascinante. Ricordo che da ragazzino odiavo i nazisti. Addirittura giocavamo a uccidere Hitler. Fra bambini ci chiedevamo spesso perché non ci avesse provato nessuno a farlo fuori. Mi colpisce che Stauffenberg parlasse a chiare lettere ed esprimesse sempre la sua opinione, anche se c'è un momento in cui deve fingere di essere qualcos'altro per entrare nella cerchia di Hitler e poter portare quella bomba nella stanza. La domanda centrale del film per me è: cosa avremmo fatto noi al suo posto? Ultimatum alla Terra, il remake di un classico della fantascienza, al 38esimo posto, una scienziata che si trova faccia a faccia con un alieno arrivato sulla Terra per avvertire l'umanità di un'imminente crisi globale. Questo pianeta sta morendo. È la razza umana che lo sta uccidendo. Voi non ci conoscete. La decisione è presa. Tu potresti fermare tutto. La procedura è cominciata. Tutt'altro genere per I Love Shopping, al 37esimo posto, commedia su una simpatica ragazza newyorkese drogata di shopping. A me piace fare shopping. Non ci trovo niente di male, voglio dire. La trovo un'esperienza piacevole. La lucentezza della seta, drappeggiata intorno a un manichino. E l'eccitazione che provi quando strisciano la carta e autorizzano il pagamento. Questo non vi fa sentire sicuri di voi e pieni di vita. Devo comprare una borsa nuova. Io e Marley al 36esimo posto, con la storia di una coppia che in attesa di un figlio prende su un cane, così cerca di fare un po' le prove generali. 35esimo posto per X-Men, le origini, la storia del violento passato del personaggio di Wolverine. Ti renderemo indistruttibile, ma prima dovremo distruggerti. Ci ha permesso di creare una lega metallica indistruttibile. Si chiama Adamantio. Dovrai ospitare un'altra natura. Diventare un animale. Cominciamo allora. Quasi dimenticavo. Ne voglio altre. E cosa vuoi che ci sia scritto? Wolverine. E questa era una dichiarazione. Il Cavaliere Oscuro, come dicevamo, l'ultimo Batman, 34esimo posto, sono 4.970.000 euro ulteriori rispetto a quelli guadagnati nella stagione precedente, visto che il film era uscito d'estate ed è stato un film talmente bello e talmente piaciuto alla gente che è andata a vederlo al cinema che noi gli dedichiamo una clip. Si è accapigliato con una tigre? No, con un cane. Eh? Una bestia enorme. Stanotte c'erano altri imitatori con fucili e pistole, Alfred. Potrebbe assumerli e prendersi il weekend libero. Non era quello che avevo in mente quando ho detto che volevo essere un'ispirazione per gli altri. 33esimo posto per Australia, una pattuglia tutta australiana in cabina di regia Baz Luhrmann, nel cast Nicole Kidman e Hugh Jackman, uno dei più bei film di quest'anno, una grande epopea australiana appunto, un po' alla Via col Vento, il primo film a superare i 5 milioni di incasso nella classifica. Signor Drover, c'è una sola tenda. È che non siamo abituati a... A una donna? A degli ospiti. Ad avere degli ospiti, era questo quello che stavo per dire. Al 32esimo posto, una storia che arriva dalla Los Angeles degli anni 20, targata Clint Eastwood. Changeling, la storia di una madre che perde suo figlio e alla quale ne viene riconsegnato un altro di bambino, un bambino che non è appunto suo figlio. Ascoltiamo una clip e poi Clint Eastwood su questa storia. Mi chiamo Christine Collins. Il 10 marzo mio figlio Walter Collins, di 9 anni, è scomparso. Dopo 5 mesi di indagini mi è stato portato un bambino da DeKalb, in Illinois. La polizia di Los Angeles ha detto a me e a voi che quel bambino era mio figlio. Non era mio figlio. It seemed like every two or three decades in pare proprio che ogni due o tre decadi il dipartimento di polizia di Los Angeles finisca sotto inchiesta perché la corruzione lo permea fino al midollo. Ecco, il 1928 è stato uno di quei periodi. Angelina si scontra proprio con questo. Invece di investigare perdono tempo, non viene creduta anche perché una madre single in quel periodo non era cosa ben vista. Ma poi con l'aiuto del personaggio impersonato da Malkovich, il reverendo, e non arrendendosi, trova le sue risposte. And they just followed through until she got some answers. 31esimo posto per Bolt, il super cane di una serie TV che si crede davvero dotato di superpoteri, scoprirà che in realtà non è così. Tu sei Bolt, il super cane! Dov'è Penny? È stata rapita dall'uomo dagli occhi verdi. Ma ho catturato questa gatta. Tu sei pazzo, amico! Lei mi porterà da Penny. Posso essere un aiuto prezioso per la tua squadra? La strada è tortuosa. Io ho una palla. È una missione rischiosa. Giuro. Pericoli a ogni curva. I pericoli li mangio a colazione. Hai fame? Da morire! 30esimo posto per La Mummia, ennesimo episodio di questa saga cinematografica. 29esimo per Woody Allen con Vicky Cristina Barcelona, la storia di due giovani turiste americane appunto che cercano l'amore a Barcellona. 28esimo posto per San Valentino di Sangue, film horror uscito anche nella versione a tre dimensioni in 3D. 27esimo posto per uno dei film più acclamati dell'anno, The Millionaire, 6.092.000 euro di incasso, protagonista anche alla notte degli Oscar. Nel libro di Alexandre Dumas, I tre moschettieri, due dei moschettieri si chiamavano Athos e Porthos. Qual era il nome del terzo moschettiere? Credo tu sappia la risposta. Non posso crederci. Beh, non la so. Al 26° posto, Burn After Reading, i fratelli Coen, con una commedia che ha divertito la mostra del cinema di Venezia dello scorso anno. Agenti CIA scapestrati, ne succedono davvero di tutti i colori. Minolo ha trovato questo CD in uno schedario. Era lì, in fondo. Sì, e ci sono tutti questi file. Questa storia non mi piace. L'hanno lasciato lì. Metti un avviso nello spogliatoio delle donne. Un avviso? Per favore, qualcuno ha scordato qui un po' di merda segreta della CIA? Brad Pitt e George Clooney, i protagonisti di questa commedia dei fratelli Coen. La prossima settimana il rush finale con i primi 25 film più visti della scorsa stagione. La Rosa Purpurea. Ed eccoci di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, la quarta e conclusiva parte del nostro programma, che come sempre si apre con le anticipazioni dagli Stati Uniti, con la nostra rubrica Trailer USA. E oggi parliamo di un film cult per diverse generazioni, un film che poi fece davvero epoca tra gli anni 80 e 90, ma soprattutto gli anni 80 sono stati gli anni di fame, saranno famosi. Questo è il film di cui vi parliamo, tra l'altro un film che ha dato origine, se vogliamo, a tutta una serie anche di programmi, di talent show televisivi che imperversano ormai negli ultimi anni della nostra TV, proprio prendendo spunto da quella incredibile scuola che, nella quale appunto si agitavano personaggi ai quali tutti noi siamo rimasti davvero molto affezionati. E per parlare di questo film, che ha un suo remake moderno, adesso capiremo anche di quale qualità, siamo in collegamento con la nostra Micaela Bellisario. Ciao Micaela. Ciao Franco, eccoci qua. Allora Micaela, dicevamo, saranno famosi Fame, I Wanna Live In Forever, ricorderete la canzone che uscì nel 1980, che parliamo proprio del film firmato da Alan Parker, un grande del genere, e da cui fu tratto poi il famosissimo serial TV, appunto Saranno Famosi. Allora, chi era davanti alla televisione all'epoca se lo ricorderà sicuramente. Ecco adesso il remake di quel film. Negli Stati Uniti l'uscita è fissata per il 25 settembre, da noi il 9 ottobre. Allora, Micaela, cosa ci puoi dire di più su questo remake? La storia è praticamente la stessa della versione originale, cambiano solo gli attori, però c'è una attrice originale dell'epoca che è apparsa sia nel film che nel telefilm, ed è Debbie Allen, ovvero, qualcuno se la ricorderà, l'insegnante di danza Lydia Grant. Ora farà un cameo come preside della scuola. Dicevo, la storia è la stessa, Fame racconta le vicende personali di un gruppo di aspiranti ballerini, attori, cantanti, artisti della New York City High School of Performing Arts. E in questo passo del trailer sentiamo un colloquio di ammissione. We've seen 150 students today. They all swear that they have a special gift to offer the school. Do you have a special gift? Yes. Wow. Ecco, come dicevo, i personaggi sono più o meno gli stessi, cambiano i nomi, del resto ora siamo nel 2009 e i nuovi ragazzi potrebbero essere quasi figli degli studenti di allora. Tra l'altro è interessante il fatto che il cast non ha nomi di rilievo, insomma, se il film andrà bene diventeranno famosi anche gli attori. Vorrei raccontare un aneddoto che riguarda peraltro il telefilm di Saranno Famosi. Al cast si presentò Veronica Ciccone, ovvero Madonna, e fu scartata. Per quanto riguarda i personaggi, come dicevo, sono più o meno gli stessi. Tra l'altro c'è il ballerino, ragazzo di colore che deve combattere anche contro lo scetticismo della sua famiglia e che ricorda un po' l'eroe del film. Poi c'è la ballerina più talentuosa della scuola, invidiata da tutti. Insomma, ci sono anche un po' di storie personali in questo film. In questo passo sentiamo i ragazzi a un'audizione tra commenti vari, si commentano tra di loro le varie performance. I was the best singer at my old school. How do you know if you're good enough? She's hot. But she thinks she's like the most talented kid in the school. Maybe she is. E attendiamo allora il remake di Fame il 9 ottobre in Italia. Peraltro alla regia troviamo un ex coreografo, alle prime armi con la macchina da presa, ma come esperienza di ballo chiaramente ce n'è molta, ed è Kevin Tancharoen, 23enne, che ha collaborato alla produzione insieme ad MTV di alcuni programmi musicali, oltre alla regia di video musicali delle pop star più acclamate come Britney Spears o Christina Aguilera. E chissà che nasca una nuova saga. Ciao Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana. E dal cinema prossimo Venturo, quindi, a quello che è già disponibile in DVD, è già in collegamento con noi Claudio Pofi per raccontarci tutte le novità in un video. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, cominciamo con un film che è stato uno dei più amati e sicuramente qualitativamente dei migliori della stagione che si è appena conclusa. Parliamo di Gran Torino, il ritorno di un iperprolifico Clint Eastwood che davvero sforna due film all'anno, un film davvero struggente su una storia di un anziano che fa fatica ad adattarsi a un mondo nuovo che non comprende fino in fondo. Ascoltiamo la clip. Non ti vedevo da un po' di giorni, dove sei stato? Ho avuto da fare. Ah, da fare? Ehi, che diavolo ti è successo? Non ti preoccupare. Che vuol dire non ti preoccupare? Come ti hanno ridotto la faccia? Ho detto non ti preoccupare, ok? Non è un tuo problema. E allora la storia di Walt Kowalski che ha appena perso la moglie, non è in grado apparentemente di superare questo distacco, nonostante la presenza dei figli con le relative famiglie, e sicuramente non si trova a suo agio nell'ambiente dove vive. Il giovane parroco cerca di convincerlo a confessarsi. In realtà Walt è un veterano della guerra di Corea e non sopporta di avere nell'abitazione a fianco una famiglia di asiatici. Tutto cambierà il giorno in cui il giovane vicino di casa, Tao, è spinto da una gang capeggiata dal cugino a introdursi nel garage di Kowalski per prendergli l'auto. E sì, perché Kowalski è un grande appassionato della Ford Gran Torino e non fa altro che sottoporla a continua manutenzione. La vita di Tao cambierà radicalmente proprio grazie all'aiuto di Kowalski, che riuscirà insomma a toglierlo dalle violenze del branco. Il film, grazie a Warner Bros., arriva in DVD con un'eccellente qualità sia video che audio, non abbiamo assolutamente nulla da eccepire, ci sono alcuni contenuti speciali che permettono di approfondire non solo la lavorazione ma anche l'amore degli appassionati per quello che è il mondo delle automobili. Esiste una versione anche Blu-ray che segnalo con una traccia ad alta risoluzione audio, purtroppo solo in inglese, mentre la traccia in italiano è riproposta identica a quella su DVD. Il Blu-ray in realtà offre in esclusiva come extra un ulteriore approfondimento sul modo di lavorare del grande regista americano. Liana Farid, de l'Aventura au souffle au cœur, Robert Wagner, la tour infernale ou le prince vaillant, le prix de la mise en scène. Bonsoir. Alors le prix pour la mise en scène, the best director, goes to Bertrand Tavernier. Queste erano le voci di Lea Massari e Robert Wagner che annunciavano il premio per la regia al Festival di Cannes 1984 per Bertrand Tavernier. Il film era Una domenica in campagna, ora disponibile in DVD. Claudio. Distribuisce Universal Una domenica in campagna, è il racconto appunto di questa tranquilla domenica di una famiglia parigina ai primi del Novecento, questo anziano pittore che riceve nella sua casa vicino a Parigi due figli. Un film assolutamente elegante, una storia rarefatta che racconta una, se vogliamo, certa idea di felicità. Il film ha vinto il premio alla regia al Festival di Cannes, arriva su DVD di qualità, se vogliamo, abbastanza buona, c'è qualche piccolo problema nei momenti di meno luminosità. Due le tracce disponibili, italiano e francese, entrambe Dolby Digital, due canali. Come extra è presente solo una galleria di immagini. L'unico rammarico sicuramente il fatto che un film così splendidamente fotografato avrebbe meritato sicuramente l'alta definizione Blu-ray. E rimaniamo agli anni Ottanta, un po' meno impegnati se vogliamo, sul versante italiano. Fu un discreto successo Sotto il vestito niente, un thriller con il quale Carlo Vanzina cercava di distaccarsi dalla commedia un po' casereccia, diciamo. Risultati forse non mirabili per il genere, ma il thriller ha i suoi estimatori. Raccontaci la trama, Claudio. È della Milano da bere questa storia, questo giallo, dove seguiamo l'americano Bob che raggiunge Milano dagli Stati Uniti per incontrare la sorella Jessica che fa la modella, scoprirà che è misteriosamente scomparsa, ha deciso a ritrovarla a tutti i costi, inizia un'indagine per conto suo, mentre una tragica catena di omicidi a opera di un insospettabile assassino getta nel panico gli ambienti dell'alta moda. Sicuramente un vanzina diverso dell'85 e un DVD nel complesso molto buono, è presente unicamente una sola traccia Dolby Digital, due canali stereofonica, nel nostro caso la versione presente in DVD è quella del 90, ovvero una versione con alcuni tagli censori imposti per il passaggio televisivo. E per chiudere torniamo su un film che avevamo già raccontato durante le nostre puntate per l'uscita in DVD, ma ci soffermiamo sulla edizione Blu-ray perché arriva nelle videoteche Walzer con Bashir, uno dei film più particolari della stagione che si è appena conclusa, un film d'animazione ma un'animazione molto singolare, tutto incentrato proprio sul dramma del conflitto in Medio Oriente. Claudio, ascoltiamo la clip, poi raccontaci un po' questo Blu-ray, che cosa aggiunge all'edizione in DVD. Tu non hai mai flashback del Libano? No, mai successo. Osserva bene questa foto. Mi riconosci? L'unica soluzione è che tu cerchi di scoprire cosa è successo a Sabra e Shatila e allora forse riuscirei a ricostruire qual è stato il tuo ruolo. È di Lucky Red la realizzazione in alta definizione di questo film molto difficile che ci racconta del massacro di Sabra e Shatila, due campi rifugiati palestinesi alla periferia di Beirut che nel settembre 82 vengono attaccati dalle falangi cristiano-maronite in una zona controllata dall'esercito israeliano. Il regista Folman, come ricordavi tu, realizza quest'opera con un'animazione assolutamente scarna. E beh, il DVD era già di ottima qualità, il Blu-ray restituisce a pieno la grande arte messa in opera per la creazione di questo film molto complesso, che chiude solo negli ultimi istanti con le immagini del massacro e con una qualità assoluta sia dal punto di vista video che per quello audio, con una traccia in italiano ad alta risoluzione. Sono presenti alcuni extra interessanti, oltre alle scene tagliate e il trailer, sicuramente tutto da seguire, un documentario, un making of di ben 70 minuti. E grazie allora a Claudio Pofi, appuntamento alla prossima settimana qui nell'angolo dei DVD della Rosa Purpurea. A presto, risentirci. E con Claudio Pofi noi chiudiamo come sempre la puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento va la prossima settimana, sabato alle 18, domenica alle 9 del mattino, e si parlerà di tanti film che arriveranno nelle nostre sale. La prima grande ondata della nuova stagione, su tutti forse L'Era Glaciale 3, il film più atteso, ma presenteremo anche la Mostra del Cinema di Venezia che comincerà poi il 2 settembre. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.